radio, un'altra radio, Roma, radio Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, radio Roma, un'altra radio, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, un'altra radio Roma. Tutto gasp questo lunedì, a tutto gasp. E se ci ascoltate venerdì su Fuso Radio, a tutto gasp. Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, un'altra radio, Roma, Roma, Roma, Roma, un'altra radio, Roma. La rifaccio partire? La rifaccio di nuovo? Roma, Roma, Roma, un'altra radio, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, un'altra radio, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, un'altra radio, Roma, Roma, Roma, Roma, eh! Hey! Un giorno nevica, un giorno c'è il sole, un altro piove, fa caldo, fa freddo, non ci si capisce più nulla, qui... So tutti matti! Matti! Matti! Matti! Matti! Questa è un'altra radio Roma! Un'altra radio Roma! Un'altra radio Roma! Questa è un'altra radio Roma! Oggi inizia un nuovissimo appuntamento, un nuovo appuntamento che serve per ritrovare energie, le giuste energie, quelle giuste energie che servono per affrontare la settimana. Questo è l'appuntamento dal titolo a tutto gasp. Gasp. Gasp. Gasp. Gasp. E il modo migliore per iniziare questa trasmissione mi sembrava quello di dover scegliere il brano più ascoltato su Jamendo, un noto sito di musica Creative Commons. Loro sono Anitech e il brano è intitolato 02 Dormouse. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, questa sera tante chiacchiere si faranno e ci racconteremo un po' di storie. Ci andremo ad ascoltare dell'ottima musica, musica Creative Commons. Rilassatevi come me. Se avete avuto un inizio settimana molto faticoso come il mio, questo è il momento per prendere la giusta calma e il giusto riposo. Non vi ho detto una cosa: oggi in radio siamo tutti quanti, però in diretta ci sono solamente io, Gasperino, perché gli altri sono indaffarati dall'altra parte della regia a trovare delle cose, a fare delle storie che poi più in là vi presenteremo e vi diremo. Lui risponde al nome di Jim Offerman e il suo pop sognante lo trovate appunto su Bandcamp. Il brano si intitola Picture Perfect. I came to you running empty. Dan su un'altra Radio Roma. Sì. Un saluto a tutti gli amici di Fuso Radio. Come ormai sapete, i nostri appuntamenti si ripetono in replica tutti i venerdì dalle 18 alle 19.30 sulla frequenza fantasma e amica di Fuso Radio. Noi dell'altra Radio Roma abbiamo occupato quello spazio, ce lo teniamo bello stretto perché è veramente divertente portare i nostri lavori agli amici di Fuso Radio. In qualche modo distribuiamo il verbo della Creative Commons. Come vi dicevo all'inizio di questa trasmissione, un po' burrascosa, un po' fastidiosa per motivi qui interni alla radio, gli altri stanno lavorando al di là dello studio a un progetto che sta prendendo sempre più forma. Nel frattempo vi do appuntamento sul nostro sito, dove potete trovare il nuovissimo podcast, il nuovo podcast, il 114esimo, esattamente alla console Mister Brontolo. Ebbene sì, questa era la prima notiziola di questa sera. Io andrei avanti, visto che il tempo scorre veloce e gli artisti che ho da presentarvi sono tanti. Andrei con un'artista femminile con una voce veramente sognante. Mentre loro, quelli che stanno sotto, li salutiamo momentaneamente Bandcamp, ci dirigiamo nel sito di Jamendo per prendere questa nuova artista. Risponde al nome di Alison Crew. Nel maggio del 2008 ha pubblicato il suo lavoro su Jamendo, appunto. È un'artista canadese con capacità vocali sopra ad ogni talento. Il brano che ho scelto per noi è Little Light. Buon ascolto su un'altra Radio Roma. Alison Crew. Half my life is spent trying to figure out where the other half is supposed to go. I'm trying to put them together again until they make sense, until they're whole. Start where you were before. Keep breaking the locks to see if there was ever really a door. And set by yourself to see if there is anything to burn. Keep making mistakes to see if there is anything to learn. And above, questions that persist, yeah, they will torture you. You will not know until it's too late. The questions that repeat will never give you answers. You will not know until you pass. Until you proprio Alison Krew, canadese con una voce fenomenale e veramente sorprendente. Lei ogni volta ci entusiasma. Il brano era Little Light. E permettetemi di salutare tutti gli amici in ascolto, in particolar modo un caro affezionato che ogni volta ci scrive belle, belle, belle parole su Mille Mics. Ricordo a tutti quanti che le nostre trasmissioni sono interattive. Potete comunicare con noi direttamente sulla chat di Mille Mics o attraverso un'altra Radio Roma e potete fare le vostre richieste che noi non ve le esaudiremo, come al solito, sempre pronti qui su un'altra Radio Roma. Andiamo avanti con la musica, visto che il tempo è tiranno, come dicevamo, e del resto di là mi stanno aspettando per decidere cose importanti qui in radio. Bene, dicevo, andiamo avanti con la musica e cambiamo anche sito. Ho trovato quest'artista su Dogmazic, ma poi ho scoperto che si trovava anche su Jamendo. Pensate un po' che ragazzetto particolare ed efficace, perché si sposta da un sito a un altro senza nessun problema. Lui risponde al nome di Marco Preti, è un chitarrista per caso, sin da piccolo aveva la passione per la musica, cercava in tutti i modi di esprimere la propria passione, andava nell'orchestra del paese, ma era troppo piccolo e non lo volevano. A un certo punto si è trovato a fare il chitarrista perché serviva un chitarrista in una band e da lì ha cominciato a suonare, a studiare musica, a farne sempre più sua, quello strumento sempre più suo, fino ad arrivare ad accompagnare artisti come Ivana Spagna o lo stesso Giorgio Faletti. Oggi si presenta appunto su Dogmazic e su Jamendo, ma è sempre più convinto sulla Creative Commons. Pubblica una traccia su un album intitolato Jazz Nerf, la traccia si intitola Fermarsi. Lui è Marco Preti, voi siete su un'altra Radio Roma. Thank you. Marco Preti. Marco Preti, il suo ottimo sound per arricchire questo appuntamento basato su note anche un po' sognanti. Questa sera rimaniamo al caldo con la musica, vi riscalda un'altra Radio Roma, ragazzi. Io sono giunto al momento che voglio raccontarvi una notizia che ho letto proprio oggi. Proprio oggi l'ho presa, vi dico subito da dove, da gq.com, la notizia del 20 febbraio appunto, e dice: i Kennedy tornano ufficialmente ad occuparsi del principale business di famiglia, la politica. Un erede della dinastia Joseph Kennedy III, nipote di Robert Kennedy, il fratello di JFK, assassinato la notte in cui vinse la nomination democratica alla Casa Bianca del 1968, punta a tornare in Parlamento. Si è infatti ufficialmente candidato al seggio della Camera, lasciato vuoto da Bernie Frank. In carica da oltre 3 decenni, lo stato del nord-est, feudo politico della famiglia democratica più famosa d'America, una candidatura che arriva nei giorni dell'anniversario dell'attacco americano al Vietnam. 50 anni fa il presidente John F. Kennedy autorizzava l'invasione diretta al Vietnam del Sud. Ma siccome la dinastia dei Kennedy la conosciamo bene, che fine ha fatto, io mi auguro che il futuro di Joseph Kennedy III sia diverso di Robert Kennedy e di JFK. Triad, I See. Don't you feel me? Triad, un gruppo veramente fantastico che mi lascia sognare tutte le volte che lo ascolto. Loro lo trovate su Giamendo, potete andare tranquillamente lì e scrivere TRYAED e corrisponderà il nome del gruppo che avete ascoltato poco fa. Semplicissimo, lo ascoltate, vi piace e lo scaricate, lo mettete sul vostro lettore e lo riascoltate ancora e lo ascoltate ancora una volta, come del resto tutti gli artisti che vi proponiamo. Sono tutti quanti free, svincolati da qualsiasi licenza. Del resto ormai è noto, la musica è libera. Ritorno su Bandcamp, un bel sitarello, per presentarvi una nuova formazione. Loro rispondono al nome di A Shocking True Story e vi andate a beccare questo bellissimo brano. Nartra Radio Roma. In memoria dei Doors. Brainstone full of gloom. I can taste you, I can feel you, smell your perfume. Red lights through the window fill your breath in my neck. There are whispers on the shadows, and you are so. Take me down to the shade.

Lost dei 3K, li trovate su Dogmazic, etichetta Creative Commons, e sicuramente sono da ascoltare. Adepti e adepti, possiamo incominciare. L'altra Radio Roma. Sugli social. Podcastesimo. Colacco. Radio Roma. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastesimo. Podcastesimo. Radio Roma. Podcastista. Podcastista. Podcastesimo. Radio Roma. Signore Santissimo Podcast della religione del podcastesimo. Ci avevano ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Si dissocia. Podcastista. Un'altra Radio Roma. Si dissocia. Un'altra Radio Roma. Podcastismo. Nuova religione. Podcastismo. Religione e un movimento. Si dissocia. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piacere. Ma no, sei credibile. Entra Radio Roma, punto. torniamo su Bandcamp. Questo lavoro si svolge da Free Music Archive, chiamando Bandcamp e Dogmazic, perché ho un artista tra le mani che risponde al nome di Robin Gray con un album sognante, sognante. Ha scelto appunto Bandcamp per promuovere il proprio lavoro. La traccia si intitola Till Down, un vero e proprio inno alla sbornia. A tutto gas. Skies today, but it's fine here in my mind. Play like a child, leaves underfoot. Autumn could turn out to be musically mine. Spring in my step, I stayed up till dawn again, drinking with friends. Moments, it feels so alive. It feels so alive. Has been better, believe better, pretend, consigned to someplace before memory. Me, wind in my hair, thoughts of your smile in my dreams. Patch up the past, love and cheap booze. I stayed up till dawn again, drinking with friends. Moments, it feels so alive. It feels so alive. Singing aloud, foreign eye, textures and words, things that we heard. My pen, it feels momentum. Sat on a train, palette of green, strangers with shoes. I stayed up till dawn again, drinking with friends. Moments, it feels so alive. It feels so alive. Questo lavoro che vi stiamo proponendo questa sera, a tutto gas, Note, note che ci fanno sognare, ci fanno rilassare, che permettono al nostro corpo di assumere energie positive, energie che ci aiutano a svolgere le faccende, le faccenduole di tutti i giorni. Ed è così che prepotentemente tornano artisti che magari abbiamo già ascoltato, come lui, Peter Kind, che abbiamo trovato su Dogmatic con i suoi 57 brani. Abbiamo preso la ballata, ossia un tributo a Dylan Dog numero 26. Sognare per credere su un'altra Radio Roma. Che verrà? Peter Kind qui su un'altra Radio Roma, continua così questa diretta a tutto gasp. Per gli amici di Fuso Radio state ascoltando quella che è stata la diretta di lunedì 20 febbraio. mentre riparte Peter Kind con il suo brano, io stavo dando un'occhiata su quelle che erano le notizie di oggi. Nulla di particolare, c'è giusto una notizia su una in coma legata alla Barella, blitz al Policlinico di Roma, ma non mi giunge nulla di nuovo. Bufera sul contratto Rai, via la clausola gravidanza, anche questo è un bel articolo interessante. Nel mondo succedono cose tipo in Russia Putin rilancia la corsa agli armamenti, 773 miliardi in 10 anni, mi sembra anche questa una notizia di poco conto, come tutte quelle del resto che diamo qui su un'altra Radio Roma, tutte notizie di poco conto. Danilo Alba, lo trovate su Giamendo, viene da Bari e ci regala una traccia caraibica. Carmenere, Santiago by Wine. Esta noche. bodas sin dinero, terminemos con un Carmener. Ya, listo, y que te vaya bien. Carmener, Santiago by Wine. Come al solito si finisce sul vino qui su questa radio. Luca Moca viene da Napoli, è un ragazzo nato proprio a Napoli nel 1982 e che vive comunque a Quarto, una cittadina vicino a Napoli. Sempre in cerca di continui suoni da sperimentare, da provare, è lì che parte la sua creatività, è lì che la andiamo a raccogliere e ci andiamo ad ascoltare Touring Breaks su un'altra radio Roma. Luca Moca. Thank you. Luca Moca su Dogmatic, un bel brano di musica elettronica in memoria di Mr. Cocot, che ha dovuto lasciare la radio perché la sua dissenteria lo aveva preso all'improvviso durante una riunione. Noi andiamo avanti però con le trasmissioni del lunedì dalle 21 alle 23 sull'onda fantasma dell'Art Radio Roma, e la replica andrà sempre in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19.30 su Fuso Radio. Quindi vi state ascoltando questi begli artisti, artisti Creative Commons, che servono a liberare la mente dall'oppressione di tutti i giorni. Bandcamp ci offre un'altra band dal nome Lorenzos. Sono formati da Tom alla voce, Mark alla chitarra e Scott alla batteria, Brian al sassofono, Cliff al basso e Eric alle tastiere. L'album si intitola Bazaar e il brano si intitola Innamorata. Innamorata tanto su un'altra Radio Roma. Found and put it down. I'm tired enough of the top of your head. Take on by the shore, bind up your easy mark. What's it gonna fix? Best time you're playing the random hour. Just put your name on the thing. È di oggi la notizia che arriva un hamburger in provetta a Londra. Costerà circa 250.000 euro, è un prezzo salato per un hamburger, ma quello che verrà servito a ottobre è un misterioso commensale dello chef britannico Heston Blumenthal. È una polpetta veramente speciale. I ricercatori olandesi hanno messo a punto in laboratorio il primo macinato di staminali bovini e chiesto al più famoso cuoco di Oltremanica di portarne in tavola il piatto degno della sua creazione gastronomica molecolare. L'obiettivo è quello di salvare l'ambiente, sì, perché se poi si legge bene nell'articolo si dice che comunque permetterebbe la riduzione dell'utilizzo di milioni di animali e quindi l'utilizzo di hamburger in provetta aiuterebbe tutto questo. Ma io dico e continuo a dire che continuiamo a dare notizie veramente che non interessano e non servono a nulla, a nulla. Come quella di questo ragazzo che risponde al nome di Rastilo ed ha fatto un album dal titolo Rastilo and Friends. È un artista francese, sta su Bandcamp, il sito dove trovate appunto il suo album, e il brano si intitola Positive Vibes. Rastilo feat. Mariana. Que je me suis en allé pour passer les frontières sans jamais me retourner. Regarder la vie en face et la laisser couler sans jamais s'arrêter. Oui, la vie m'a emmené. J'ai traversé des fleuves et des villes animées, des forêts, des montagnes et tant de vallées cachées. Et si j'ai fait ce chemin sans jamais m'arrêter, c'est pour découvrir le plus précieux des trésors cachés. Et m'a pris par la main. Un petit grain de sable et un volcan éteint. Un étang caché et un sourire sans fin. Allongé sous les étoiles d'une nuit d'été, elle revient et revient sans jamais s'arrêter. Oui, c'est elle qui m'a tellement inspiré à chanter de tout cœur cette douce pensée. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them, just be aware. Make this groovy rhythm style your own and spread the vibes and the reggae ragga sound. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them, just be aware. Make this groovy rhythm style your own and spread the vibes and the reggae ragga sound. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them. Dans les contrées où il pleut jour et nuit, la chaleur d'un toit où tu es bien accueilli. Et encore une fois, j'ai vraiment compris la vie. J'ai vu le soleil dans le cœur des gens épanouis. Tous ces musiciens magiciens que j'ai rencontrés, toutes ces musiques qui m'ont fait voyager. Tant de diversité, 6 milliards de pensées, tant de façons de vivre la vie et de l'aimer. Les voyages réels m'ont tellement inspiré, les voyages de l'esprit qui m'ont emmené, les voyages du cœur qui m'ont bien montré que la diversité est d'une si grande beauté. Tant de vibes positives dans le monde partagé, et toutes celles que tous ces gens m'ont données. Et si je suis ici, c'est pour les propager, pour les faire perpétuer, ouais, c'est vibes, ragga, reggae. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them, just be aware. Make this groovy rhythm style your own and spread the vibes in the reggae ragga sound. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them, just be aware. Make this groovy rhythm style your own and spread the vibes in the reggae ragga sound. Positive vibes all around in the air. Love them, trust them, just be aware. sac et je me suis en allé pour passer les frontières sans jamais me retourner. Regardez la vie en face et la Rastilo, Rastilo che trovate su Bandcamp, un bel sito che quest'oggi ci ha presentato diversi artisti. E lui è un artista francese interessante, veramente interessante. Del resto l'hip hop francese è un hip hop abbastanza interessante rispetto a altre nazioni. E vabbè, andiamo avanti con la musica Creative Commons, andiamo avanti con questa trasmissione dal titolo A Tutto Gasp, condotta e ideata da me, mentre qui a Un'altra Radio Roma si continua a progettare qualcosa che speriamo molto presto di comunicarvi. Vogliamo invitare tutti gli artisti che hanno voglia, che hanno il desiderio di cimentarsi nelle musiche, a contattarci attraverso un'altraradio@live.it, dove potete chiederci consigli, possiamo aiutarvi, possiamo in qualche modo indirizzare tutti gli artisti che hanno voglia di incominciare a presentare i propri prodotti. Andiamo avanti con un artista che ho trovato su Free Music Archive. Esattamente, ho trovato un'etichetta dal nome CBC Radio 3 che dispone in Nord America di una possibilità di andare in onda sul satellite, mentre nel resto del mondo lo si trova nel web. Questa etichetta va in giro per l'America a registrare concerti, situazioni che altresì non potrebbe, attraverso magari delle semplicissime apparecchi di registrazione, e poi invita gli artisti a andare a suonare magari in studio e propone in streaming, quindi in diretta, quelli che sono questi concerti. E da questa etichetta ho scelto un artista che si chiama Kna e ha prodotto recentemente un album dal titolo Troubadour, che trovate appunto su Free Music Archive, e si esibisce live con una traccia Waving Flag. È un alternative hip hop e ricordate che lo avete ascoltato su Un'altra Radio Roma. Fra 10 minuti ci risentiremo. That's a hot cheek, man. But it gets deep. We turn the corner, deadly aroma, technical roller, 210 controllers, they fire on us and kill my two friends. Mohammed oozes from where his roof is. I got some bruises, crooked is useless, these dudes are ruthless. Cry baby, move quick. We jump the wall in, make it to home, and I'm still in shock when the door is open. My mama hits me, then pulls and kiss me. You want to die, I want to cry, but when I get older, I will be strong. And since my brother and my sister and my mother and everyone is here tonight, they would kill me if I don't do this other second crazy verse. Check it out. They would kill me if I don't. My sister's got beef with me because whenever they write about me, what? Okay. Whenever they write like magazines and whatever they're talking about me, they never mention my sister for some reason. It's like I don't have a sister. And it's not me. They just don't mention it. And then, because it's not that exciting to have a sister, you know? It's not like newsworthy. So she's always like, I'm here, what is going on? So I say, got off the plane, feeling insane. Me and my brother, sister, and mother, wink, wink, Sagal. And then it hit me right in the kidney. Where are my friends and why aren't they with me? But I will make it and rep you strictly. Remember how we heard about New York City? Well, that's where I am. We moved to Harlem until the INS gave us a problem. So we had to sneak up into the T-Dot. Jane and Finch, Rah Rah Rex, Dixon. Dixon? We had to sneak up into the T-Dot. Toronto heats up, police got me cuffed. That was the 90s, I started writing, open mic ciphering till my skills brighten. If it wasn't bling bling, then it was in sync. It's gotta be something else. I started thinking, I remember singing, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's own, but it's my home, all known where I got grown, streets we would roam, out of the darkness I came the farthest, among the hardest survival. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day, it's not far away, but for now we say, us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us, try to control us, they couldn't hold us, cause we just move forward like buffalo soldiers. Thank you.